ancora? Brecco, brecco, brecco, brecco, brecco, ora, ora, ora. Aguantó, aguantó, ahí la Puerto Rico, buenos días, buenos días. Breco, breco, atento se escuchi, Nord Italia, hola, hola, breco, breco, se copi Nord Italia, cappa, cappa, hola, breco, hola, breco, controllo, grazie. C'è qualcuno? Hola, attenzione 10. Hola. Attenzione al canale 10. E beh Gianni. Poi Tony. E beh allora. Spero se mi colico perché sennò sto male. Io piaccio se non sto bene. Via da te. Che sono scoglionato già, boh. Era acceso poco fa il baracchio, non c'è mai nessuno. Io sono da poco fa che chiamo e non risponde nessuno e l'ho lasciato acceso, non entrava nessuno, ho detto boh, vediamo un po' se entra qualcuno. E mio stesso era acceso, dicimi, spazzolato su 23, poi su sì ho visto che c'è gente da fuori, c'è un po' di propagazione, si comprende nulla, poi fischiamo su 10, nulla. Io già ci sono quasi sempre, dai. E tanto non mi posso muovere dal letto, cosa faccio? Ti porti alternata presso già. Alternata? Sì, certo. E il microfono, eh. Tu giornata così è comunque. Niente, stasera vi faccio una bella focaccia farcita di verdure. Dimmi se adesso c'è l'alternata, guarda. E me se lo metti la portante non parli, di come faccio sentire se c'è. Guarda, adesso c'è. La portante c'è adesso, guarda. No, adesso non ne hai. È dovuto al fatto che è troppo vicino all'apparecchio. Se io la metto sul letto, per dire, o sul ginocchio, non si sente più nulla. Perché non va vicino all'apparecchio. Purtroppo è così tutte le cose. Io nel senso con il microfono metto vicino al baracchino e innesca, va di casino. Allora mi dovrei mettere le cuffie. No, è questione di microfoni proprio, perché io se a Delta lo mettevo a fianco all'apparecchio e non dava nessun problema, capito? Se a Delta quello che ho venduto non faceva nessun problema. Io quando è ieri non avanti ieri sono stato a Capri 2. Cosa? Avanti ieri sono stato a Capri 2. Capri 2, chi è? Capri 2 Muros. Ah, ho capito. Gli ho regalato 4 baracchini, quei vicchi. A Gian? Certo. Ha fatto bene. E quali baracchini gli ho regalato? Che marche? Ah, uno era NASA, l'altro Grunding, ma proprio quei vicchi proprio, ma come funzionano, c'è uno con l'alternata, ma gli ho regalato perché non me ne faccio niente. Lui si è cercato qualche carcassa di baracchino, e invece gli ho trovato a tosse, funziona, se va da, a lui gli piace, e dice ne ho un me, e tu va a fare un museo, vai. Non ne facevo niente, mi sono fatto dare un filo di coso per cambiarlo all'altarne, già, perché il mio era come quello che ho dato a te, che era corto, l'ho comprato nuovo, lungo, e me l'ha dato uno, ma io ho visto, lo stavo smontando per farlo, ma dei fili che vanno su è un casino, non è così facile cambiare il filo, bisogna andarci piano. Non è facile, ma già si può fare, basta controllare come l'altro. Sì, ma non ho capito, ci sono dei fili, del filo spiralato che va nel mic, ok, ma ci sono altri fili che va sempre spiralato e vanno su dal microfono, e mi rimigliano i fili così lunghi io, e quello è il mio problema, là mi sono bloccato e ho chiuso tutto. Che vanno su, praticamente il mio finisce lì, praticamente tu salvi i fili che devi mettere nel circuito e finisci lì, se saldi tre fili e poi praticamente lo fai uscire fuori. No, io ho visto che dal cavetto che ho io, che entra dentro il microfono, c'è la, questi bolsoni, la piattina dove erano saldati i fili, eccetera, eccetera, poi sempre da quel cavetto spiralato vanno altri due fili e salgono su dal microfono, ci vanno in cacchio, e come ti posso vedere i fili andati già sopra? Tu li cambi solo il pezzo che c'è dal microfono all'uscita per attaccare il baracchino, li cambi quel pezzo lì, non è che devi cambiare il pezzo del filo che va su, no? Gianni, te lo rispiego allora. Il filo spiralato ha 4-5 cavi. Oh, 2-3 vanno lì e 2 se ne salgono sopra. Come cavolo faccio a entrarci sopra io? Non li puoi fare a quello che c'è, non li puoi unire l'altro che metti, scusa. Mi fai una saldatura e li unisci uno con l'altro e non ci devi andare su. Lasci quello che c'è e è finito il gioco. Troppo complicato. Poi c'è un saldatore, ma dai, ce l'ha buttato così grande, no? Per adesso ho richiuso tutto, lo lascio com'è, buonanotte. Adesso non lo posso anche utilizzare perché ho tolto anche lo spinotto e devo rifare lo spinotto. E il filo è corto e devo tagliare un pezzo di quello che mi è spiralato. È un casino comunque, un bel casino. Vediamo. O lunedì vado direttamente, lo compro quello lungo come ce l'hai tu e faccio il lavoro con calma. Qua l'abbiamo cambiato, non c'è problema. Abbiamo cambiato quello e anche il potenziometro che non andava. L'abbiamo messo nuovo. Vado. Tu le dove l'hai preso? Da cosa? Da fusare a quel cavo spiralato più lungo? Quello lungo non l'ho messo nel TAR, l'ho messo nel coso, nel diavolo rosso, dai. Non l'ho messo nel tanner. Nel tanner si è lasciato quello vecchio? No, l'ho messo nuovo, ma è un cavo di microfono DM1000 questo qua. È un DM1000 che avevo praticamente demolito e c'avevo il cavo. praticamente gli ho messo lo spinotto, tutto nuovo. Ti affretto. Dunque, sto uscendo col presidente, tutto da canale. Come sto uscendo col microfono normale? Bene, con cosa sto uscendo? Col presidente, tutto da canale. Va bene, questo presidente va bene, io non l'avrei dato. Questo lo vuole Emanuele. Però vuole darmi un radione che a me è antico, ma a me non mi piace il radione. È bello com'è, io non mi voglio mettere in mezzo su quell'affare che dovete fare, però questo apparecchio io non l'avrei dato perché esce bene, esce proprio presente, anche col microfono normale ma riamplificato. Non so, poi c'è altro canale, nuovo logo, messo bene, c'è quello svitro rotondo, bello. E lui prima mi ha chiesto di fare scambio e devo dare anche 50 euro, tu c'è cioè tutto macco. Cazzo, se lo do lo do minimo 130 euro, di vero non le do. Questo l'avevo pagato io, non doveva da fuori. Anzi, non ho detto neanche che era un data canale. Infatti una volta guardando, controllando in casa, schiaccio questo HI, e beh, e dove sono? Con baracchi che mi cercando, poi sono andato sui canali altri, cazzo mio, 80 canali c'ha, buono. E tanto non li usi Tony, va. E chi li usa più i canali alti? Boh. Siamo sempre sul 10 o sul 23 o sul 20, siamo sempre su quei canali. Cioè, dunque, tassi il microfono, poi le cuffie, il volume, lo squelce, il mic gain, l'RF gain, canale calicolo, l'off che va tutti canali alti, poi c'è il pH, il mi e poi anche il turbo on off. K. Io guarda, non so quanto col volume, dimmi se mi ascolti bene. L'ho alzato sul cagito, ho alzato il volume, io che cosa? Capita? Più forte? adesso l'ho alzato appena, era a metà. Lo svita però a me più di 9 e spicciolino, qualche spicciolino non mi dà, si blocca lì, questo è avaro. No, ho alzato il microfono e non la potenza. Il microfono solo alzato per vedere perché me l'hanno fatto abbassare, dice che era troppo forte. No, già, appunto, ho controllato lo sbaglio. Più o meno tu le Galaxy mi arrivi 9.30, cioè di mi proprio. E qua guardato invece 9. Tutti così arrivano, capito? Proprio se è perfetto questo non me lo dà. Questo avrebbe regolato, ma io non lo apro. È originale, perfetto, così lo lascio, abbia luci. Rivinti questi apparecchi antichi, è anche il 3009 così, che anche quando lo compri dalla fabbrica ti dà segnali in meno, ma io lo so già, devi dare, puoi dire se è 9 devi dare 9.10, del 3009 lo so già, e anche del Royce, il Royce però un po' di meno, là. Per dire se è 9.5 è del 9.10 per dire, il segnale originale. Vabbè, ora posso regolarmi perché ho notato che da un apparecchio all'altro, per dire dal Galaxy al Royce, ci sono queste differenze. Non so cosa hai fatto tu, allora, all'inizio come è scritto la portante, radio 0, poi di colpo radio normale, poi continuando a parlare, si è aumentato la radio un forte amplificata, ma tu sei giochetti? No, l'ho schiacciato male sicuramente, tu lì, questo microfono qua. Non ha più la sensibilità di prima, cosa devo dire, perché cosa è successo? Che ho toccato le lamelle perché non usciva più di radio e ho toccato le lamelle, adesso dovrebbe uscire bene. Si ammobba adesso. Che microfono è quello lì? Super Sidekick. Ok, come quello c'ho io. Poi c'è quell'espander 500, non va bene alla Galaxy, sì, alla Galaxy va, però fa sempre il disco troppo vicino al micro, al coso, mentre qua al coso, al presidente non va bene, perché devo cambiare i corsi, perché sono sicuro se metto qua il CD Kiki qua a presidente c'è una nuova Galaxy. Il Galaxy va bene, sarebbe Master Plus, quello è proprio adatto. C'ho così scordonato già, non so cosa fa, nulla, perché a quando sono andato a quel paese mi l'ho bloccata, mi ha rotto le balle, se la piglia in culo. Ah va, sempre così succede, poi già lo sai come te. No, già, l'ho fatto incazzare quando c'è l'ambulanza con la sirena e la Peggiatori non si è fermata, è passata avanti, anche a Ranetta se le guardava, ha detto ma tu sei manca, c'è da ritirare la patente. Ma cosa ne sai tu? Ma che sei sicuro che c'era malato? Si va via la sirena, ma siamo fuori di. Sto facendo la stamattina in pista, lo scendo. Qualche vicchia, qualcosa. Ma rompi i coglioni, qua là, rompetemi le balle, se vuoi ti lascio qua, no, tu a me accompagni la macchina mia, me ne gioca a dente, non torno mai più, va a fa cura, da lì mi sono rotto le balle già, basta. Oh, voi, non si può ragionare questa qua, no? Satta si infala come te la macca. Diciamo che è bipolare. Ma ti pare io vedo un'ambulanza, se vedo solo l'appeggiatore, non c'è la sirena, non è fretta, si ferma anche la semaforo tranquilla, ma se uno esce da quel rione lì con la sirena spiegata e l'appeggiatore, io mi fermo prima, io passa giustamente, vedi dare la precedenza e tu non li fai passare. Io ero contento se la polizia avesse partito così, anche aveva bucato, vista la patente aveva bucato. Oh yeah. Beh certo, quando tu vedi un veicolo in urgenza così, devi farti la parte, metterti di lato e farlo passare, poi ricontinui la tua strada. Io faccio così per noi. Io non so se quel ragazzo è stato così intelligente a pigliare il numero di targa e segnalarlo, allora che vuole la patente il taguglio, raga. No, quindi quando fai l'urgenza non hai tempo di fare queste cose, stai inquadrato sulla guida e tu già lo sai, già hai guidato anche tu l'ambulanza, quindi lo so com'è. Vabbè, però lascia quello che guida, però ma la torcia a fianco deve prendere a poter provarlo. Purtroppo queste persone qua non si trovano mai la macchina della polizia dietro, perché se dovesse succedere una cosa del genere davanti alla macchina della polizia di bisigni, ti verrà mai delle abbattere subito. Vabbè, fanno bene. Ma ci credi che stavo per chiamare io la polizia quando mi ha lasciato a me e dire cosa ho fatto, che è successo? Ma oppure dai, posso soccorso a trovare quell'ambulanza, non vuoi rimanere targa no, mica. Non si è uscito. Ho detto cos'era, il soccorso sardo? No, non ho visto che ambulanza era già. Ero cazzato nero perché non l'ha fatta passare, poi ho parlato con lì, un'ambulanza e quel tipo vecchio. Mi è uscita praticamente dalla vita Giovanni La Freccia, da quella zona lì, da quel coso lì. Ho capito, e vabbè. Le donne a volte sono così. Io temo certe donne ci passano casse con. Io ho un'amica che quando guida mi va di cagare sotto con le sue macchine con lì. Passa lì stop sparata senza guardare, senza fermarsi, niente. Ma comunque, se io l'ho bloccata sia nelle chiamate, lì non mi può chiamare. Se lei mi chiama fa uno squillo poi cade la linea di colpo. Perché mi bloccava anche lei quando mi ci va un forte e faceva la stessa cosa, quindi l'ho bloccata sia nella chiamata che in WhatsApp. La base della mia culo. È già un 3-4 giorni e basta, non la sblocco più. E poi ti fa una mollina e tu diventi dolce dolce. No, non lo può fare perché qua non ci può venire perché c'è non gliene apro. E se no domani avviso anche a Vittorio, dico, se viene quella Monica dovresti dire apri il cancello, no c'è nessuno, non ti posso aprire il cancello, però bisogna avvisare a tutti, non solo a Vittorio, perché qua le famiglie sono aumentate adesso, c'è una famiglia sotto, sopra c'è mio figlio, c'è la scalinata, quindi è un casino. Ma tu adesso quindi da dove passi? Sempre dallo stesso cancello passi? Sempre da lì passo io. Però quando arrivo a piazzale io, invece di girare a destra e salire su, io devo fare il giro dove abito prima io e salire da dietro, perché lì hanno messo già delle cose, delle piante che fa da coso, da confine praticamente, io non ci posso passare dritto adesso. Ah, c'è una strada per passare, io non l'ho mai vista questa strada che c'è dietro. Sì, che c'è la strada. Ma dietro dove stai dicendo tu già? Sei dritto per andare a casa tua, si divide quella biforcazione, una parte si va dalla casa di loro e dall'altra parte a casa tua. E se si va dritto si va a casa tua, tu devi girare a destra. Allora, io entro nel cancello, faccio tutto il viottolo, a destra puoi girare l'ambito a Corrado e lascia aperto, vai sempre dritto. Poi c'è la bifurcazione, a destra non ci giri, che tiene la sinistra, arriva in piazzale grande e va a finire nel cancello che ci trovi quasi di fronte, che l'abito prima io. Io da lì devo passare, salire su, fare il giro e andare a casa mia. Prima invece no, come arrivavo nel piazzale, subito giravo a destra, a fianco dove c'è la scalinata, quel palazzo bianco grande, e salivo dritto, adesso di dritto non posso più salire, che era tutto chiuso. Capito, ma che ha fatto questa cassata? E poi, dopo il cancelletto, c'è il convulso, quando balzeva, la macchina smanda, scivola, fango, casino. Guarda, io metti qualche cosa qua perché è un casino, ha buttato la sabbia, è come che non è messo, per carità. No, devi metterla, cemento muore, o piglia con lo scavatore, raffigheggia tutto e mettere roba grossa, anche se no si fa sempre un pantano. E la dica in bagno, lui la macchina triste, gli faccio la retro, me la fotti nuda, in caso mi paga anche la macchina, perché te lo sto dicendo ogni giorno. Occhio che qua, anche se cammini piano piano, la macchina sbatta. Se si impattava, se c'è fango, e niente, e vabbè, piano piano, dato lì, fai l'altro passo e via. E allora... E niente, adesso mi ha chiamato anche l'avvocato stasera, e ha detto guarda che io al 12 dicembre finisco tutto, ho fatto il giro dei conti, dei giorni che devo fare e quindi chiudiamo la pratica. Mi raccomando il foglio dell'ospedale, come si è guarita, beh certo. Così poi glielo do tutto l'avvocato e chiudiamo la pratica. Tanto sono sicuro già che andiamo a finire il tribunale, perché l'assicurazione, c'è chi cosa pagherà, 200-300 euro all'anno, e la situazione pagava centinaia e centinaia di soldini, del bagaglio, migliaia e migliaia di soldini, quindi io sono sicuro che si va in tribunale, perché il nostro tetto ha dichiarato quello che ha dichiarato, prima ha detto il velo, poi ha dato il messaggio, poi va a dichiarare diverso, e l'assicurazione si è avvalsa al di là, ma l'avvocato ha detto non c'è problema, se andiamo in tribunale, tocco quel foglio che mi ha mandato il messaggio, e dice proprio la verità sua, e la colpa è mia, sono passato con rosso, quindi l'ha preso per il culo sia il suo avvocato, l'assicurazione e Gatto Venè, peggio meglio, e passa da cosa a penale, poi se trovare un giudice talmente incantato lo condanna a burro, peggio meglio. Certo che non è stato molto coerente, se avesse fatto, ti avesse fatto direttamente un CID direttamente a te e via, ti avrebbero pagato e sarebbe finita lì. Pagato no, perché io sono ancora in cura già, dal 16 luglio ho fatto il conto, io finisco 12, quasi 5 mesi, il 12 dicembre con tutto quello che sto facendo, perché adesso da lunedì ho fatto altri 10 giorni di ginnastica, magnetoterapia e poi si chiama TENS, l'altro. La signora, trovatela. Non sei uscito poi, la signora, trovatela, cioè, chi signora? La visciamma. Ma visci a me, dove vai a farti la fisio? Allora, la prima volta che sono andato non l'ho trovata, perché la mia dottoressa mi ha cambiato il turno, la mazza di varia. Come ha cambiato il turno, poi il secondo giorno ho fatto io finendo entrando lì. Ho detto, mi ha cambiato l'orario. Adesso da lunedì cambio l'orario di nuovo più tardi, quindi non la troverò. Adesso devo cercare di trovarla, ritracciarla, farmi dare il numero di telefono suo, così ci vediamo, è l'unica soluzione. Sì, niente, adesso io da lunedì devo andare alle 11 e mezzo già, e ne esco a luna, perché ne ho un'ora e mezzo. Mezz'ora. Kappa. Vabbè, ti fa un po' di palestra almeno. Non so come funziona la palestra per la ginnastica, Dice di andare in palestra, io non so com'è. Ci saranno le panche, questa roba qua, penso. Poi ti fanno applicazioni elettriche, tutte queste cose qua. Io perlomeno a Porto Torres facevo così, mi facevano camminare sulla linea dritta per vedere se mi tenevo in equilibrio bene quando mi hanno operato. Mi facevano camminare sulla striscia dritta e dovevo camminare dritto senza barcollare, capito? Vabbè, sono il piede sinistro io che è ancora un po' gonfio, devo allenarsi un po'. Comunque sto camminando meglio, non sto più zoppicandomi già. Meglio così. Sì, ma è leggermente ancora gonfio, quello che... Tu pensa un po' quanto ne ho passato io. E poi il braccio sta migliorando leggermente, non assai, perché come faccio qualche sforzo girandolo dietro, mamma mia, vedo le stelle. quello solo mi dà la complicazione adesso, solo il braccio, e poi il pollice destro dove c'è il distacco del trapezio, ah, poi c'è anche quello, quindi la cosa, diranno che ci vuole moltissimo tempo, io andrò all'ospedale a farmi fare un altro foglio, cosa devo fare perché sto trapezio mi fa male, posso svitare la mano, una bottiglia, se loro mi scrivono che ci vuole anni per riprendere sto quanto, mi fa il foglio, ok, allora io la scuola dovrò chiuderla e rimarrà che avrò un piccolo handicap per la mano e ci darò qualche soldi. Ehi, ehi, Tony, vabbè, vedi tu, mi sa che questa assicurazione va a pigliare di là, ci arrivo di subito a per darli. Oh, oh. È la Allianz Banca, non ti è già nata. Allianz? Perché esci a colpi tu? Allianz Banca. Bank, Allianz Bank, ho capito. E vabbè. Purtroppo loro cercano di tirare, capito? Tirare, di non dare quello che devono dare. Quello è. Che poi se tutte assicurazioni, dico generale perché così, perché io ne ho cambiato parecchi, anche la Fondiaria ha avuto la pace. Queste tutte, la maggior parte delle assicurazioni che ti dicevo, sono tutte uguali, ti mando la lettera per pigliarti Maruguru, premio, ma indietro un premio, mi aumenti l'assicurazione oppure l'assenza, non so cosa mi paghi, dov'è il premio? Ma invece a carattere di 20-30 euro, beh c'è il premio, lo sconto, no, premio, ti prendo per il culo tutti quanti, sono tutti uguali già. E vabbè, ma c'è quella che ti fa pagare meno di assicurazione, c'è quella che ti fa pagare di più, già lo sai tu, no, l'hai appurato. Quanto hai risparmiato con quella lì? Allora, da 2,20 sono arrivato a 175, sono 25-45 euro. Non è buono, meglio la teglia, no? Aspetta, aspetta Gianni. Dunque, ho detto da 2,20, ogni 6 mesi sto parlando, però ho fatto il giro per il conto in un anno, da 2,20, no, 2,25 l'esattezza, sono esattamente 4,50 all'anno, qua sono 175 e 175, sono 300 e 350, qui c'è differenza. Non sei uscito in radio. Ho detto, l'ho fatta fare anche a Carlo, già si è trovato bene. Io risparmio 100 euro all'anno questa situazione qua. Poi tu, io non aggiungo più perché ti ho messo quell'affare, cosa te ne fai di questo, cosa satellitare che ti ho messo? È una macchina già di lascia aspettà, paghi di più e basta. Allora mi ha spiegato Gianni, il coso satellitare è anche buono, se tu io non lo voglio pago qualcosa in più, con quello da fare lì loro ti vedono con via satellite, se tu crei un incidente oppure camufli un incidente, ci sono tante cose, per esempio tu lo so hai un incidente, per esempio cosa ne so, un incidente, ti sbatti con Pantù, vuole fare la scuolazione da uno in casino, un altro te la fate di nascosto e un'altra via, loro sanno già che tu sei in quel punto lì, risulta perché loro frugano, insomma non puoi fare i camuffi quando c'è il coso satellitare. Ah ecco, quindi non paghi di più ma di meno. Certo, paghi di meno, mica stai sempre chiamando il caratteristico eccetera, loro sanno già, ti individuano con GPS in che punto sei tu. Quando io c'avevo la Ford lo stesso, quando io mi si è fermato la Ford, ho pulsato il pulsante, mi dica se ho tolto eccetera eccetera, ho detto sì, mi si è fermata la macchina, sì, la vedo lì in piazza come lo serra, tutto maledito, lì sto mandando il caratteristico, capito? Ah, mi chiami direttamente da lì? Sì, sì, chiamano loro i caratterizi, c'è il nostro cliente, fermo lì, vado a prenderla, porta io, ho un'officina a casa sua, ecco. Ma io il caratterizi ce l'ho dall'assicurazione, c'è un'assicurazione, ce l'ho compresa anche il caratterizi. Io ho l'assicurazione e compresa i caratterizi, se io non volevo caratterizi pago qualcosa in più di assicurazione, perché ci sono anche i furbacchiotti, siccome a me mi fa piacere, perché se giustamente, a me, tu mi dico cosa è successo, quando me lo affordo, io quello del caratterizi lo conoscevo già, Sangiano. Quindi si era bucata la 600 che va a Monica e non cambiava più, ho chiamato il caratterizi e ho posto che è la macchina mia, quindi è venuto già detto sua, era della macchina mica mia, dalla porti, la porti in campagna da me, e ha detto vabbè non ci sono problemi, però rimane sempre dietro perché via satellite, lo vedo se ok va bene, grazie a Dio ed è tutto risultato ok, puoi fare questi camuffi, la puoi fare benissimo, capito? Vabbè, ok, preciso, è uscito via stasera? No, stasera niente, già, no, sono uscito stamattina, ho preso il pollo per i Caruzzi e poi cosa ho fatto? Niente, proprio niente, sono ritornato qua, ho fatto un giro in Sassari, mi sono fatto. Ieri sono uscito con Max, mia figlia, e vabbè, fa un po' di compere. Oggi proprio, ieri sera poi, sono maderato, ha piovuto a me, e sono rimasto in casa. Stasera non avevo voglia di uscire, faccio bene ma che in casa, non me ne posso andare in giro, voi. E mi sono rimasto in casa lo stesso, domani anche domenica. Ero contento se oggi era domenica, domani era lunedì, e invece. Vabbè. E domani domenica, sì, e poi salta anche questa di settimana, senza chiamarmela, di grazie a manna loro. Ma è volata, stanno volando 6 settimane, se ma qua c'è da andare, ma te ne immagini, raga. Niente, niente radio, tu lo schiacci bene. Ho detto questa... come si dice, perché... sto soffrendo troppo e non lo sento questo Natale. Sei uscito radio a tratti, comunque, schiaccia bene già. Non lo senti, ma ti pare che io sento anche Natale? Allora io la maggior parte di Natale me la sono fatta, rassurami. Qualche volta sì, da Max, ma a volte non voglio disturbare nessuno, già. Quante ne ho fatto Natale Capodanno, anche se aveva la compagna tempo fa, e praticamente loro non lo festeggiano il Natale la notte, no, tutti quei paesi non lo festeggiano domani il 25, boh. Capodanno non se ne parla nemmeno, uscivo io con lì, Capodanno uscire fuori a avere qualche concerto, eccetera, per dirti. Ormai non è più come una volta già, prima era diverso. Prima c'erano le madri che riunivano tutti i figli a casa, con i nipoti, poi veniva anche quella di fronte a casa, signora Vacca, che era sola, e mamma la invitava sempre a Capodanno, giocavamo a tombola tutti insieme, una cosa diversa. Lo so, anche io quando ero ragazzo, tutti in famiglia, mia sorella, mio fratello, si giocava anche a poche, al 5 lire, mi ricordo, per passare la nottata, ci divertivamo, panettone, sfumante, che così era, dai, e altri tempi. Mi ricordo che il capodanno famoso degli anni 60 si lavavano in tutto tra macconi e cos'è che c'era, poveracci? I stranzini si facevano il culo la mattina presto, gara. Io non l'ho conosciuto, ma già l'ho sentito che facevano così. Non ho conosciuto quel periodo perché io sono del 59, immaginate, del 60 è un anno. Non potevo conoscere queste cose, però l'ho sentito che la buttavano da sotto, boom, e si rampavano la roba. E infatti le macchine non circolavano più al centro storico assolutamente, ma non esisteva proprio. E molti ce ne andavano anche un po' prima, poi dormivano dove andavano a fare la festa, dicevano no, non ti muovi più in macchina qui, non puoi passare. Tra vetro, di tutto buttavano anche comodini vecchi, armadi vecchi, dromaconi, nel casino, nel casino, capivo. Ma ero ragazzino già, ma il casino era troppo bello, erano altri tipi, dai. Poi mi ricordo negli anni 60, che furono a 61, 62, 63, quando mamma cucinava un minestrone, era un signor minestrone, un po' sapore proprio micidiale, cose che adesso non le trovi più, i sapori buoni. E mi ricordo che la Nutella la vendevano sfusa, vendevano Nutella sfusa e la cremalba, e era quella bianca, poi quella rosa, ma un sapore così buono, con la carta oliata, anche l'estratto. Adesso vedete tubiti lo vendevano a Etti, capito? Quando io lo compravo a mamma e andavo col dito a zac, me lo mangiavo prima di arrivare a casa. Lo so, anche la pasta, c'era la pasta extra, la pasta comune, chi si è andato a misciata, tutti i tipi di pasta mischiati, c'erano i cassettoni, c'avevano la cazzola, le prendevano con la cazzola e te le mettevano. Le mentine con 10 lire te ne davano un pugno di 20. Una lira nuova venivano già, me lo ricordo ancora. Sì, la pasta era sfusa, me lo ricordo, ma era antigirico, perché se noi non lo cioè, quei tempi non sapevamo niente, però se oggi che tu adesso si gelata al pacco della pasta, ti pare che ti abbigliano amico, rimani, non si usava mica i guanti che usavano adesso, manco ma. Allora ti abbigliava, te ne pensava, te ne metteva, non era igienico, dai, comunque, anche le sigarette sfuse vendevano. Io mi ricordo quando ero ragazzino, giocavo alla scuola di San Donato e ho trovato un borsellino di curio viola, me lo ricordo ancora già, l'ho aperto e c'erano 200 lire, due pezzi da 100, una da 500 e 2000 lire, due pezzi da 1000. Sono andato a casa, subito mamma, via, io abbiamo fatto la regata 500 lire, sono andato a Ciro con la Minchi e adesso ho mandato il budino. A me mi ha regalato, ti regalo 100 lire e questa è a casa. Oh, tu non ci credi, ero ricco, non finivano i macchini di là, tra giugiole, mentine, chi te che d'altro, oh pinguino, pigliavo quello, quella caramella fatta tipo in butto, mamma buona, mi dolce, che è troppo squisita, la farina costava 5 lire a fetta, tu pensa un po', la gazzosa una cazzata, e oi, a te tempi ero già, però vedi, nonostante eravamo, diciamo, così posso dire, non è che stavamo bene tutti quanti, però stavamo meglio di oggi, se fai giro i conti. Sì, eravamo più retrogradi, diciamo, in certe cose, non c'era il telefonino, c'era il telefono a gettoni, si faceva la fila per telefonare quando eri fuori, ma erano cose, diciamo, più naturali prima, e si campava meglio perché i soldi valevano di più e non è come adesso che tu cambi 100 euro e di colpo non c'è più nulla, proprio spiccioli, non c'è più nulla, per fare la spesa 80 euro, davanti ai 20 euro, vai metti la benzina per benzina. Sì, ma io, allora io mi so che un coso su TikTok, ma è vero, guarda, perché dice io prima, aspetta, cos'hai detto, con 20.000 lire, allora 20.000 lire io mettevo 10.000 lire di benzina, con la mia ragazza ci pigliavamo due pizze, ci pigliavamo caffè, insomma ci ammazzavamo qualche cosa, oggi 10 euro valgono 20.000 lire, detto, la benzina e non c'ho più tubo. Lo so, Tony, è così, è così, è un casino, adesso non valgono più nulla da avere i soldi, adesso se non lo so cosa voglia fare questo nuovo presidente, che c'è, che se sono solo parole, se sono anche fatti, ma da quanto dice dovrebbe migliorare qualcosa. Ma che toglie il reddito di cittadinanza, sono l'uomo più felice del mondo, credimi, perché voglio che lo danno ai pensionati che hanno 500 euro di pensione, che non riescono neanche ad andare avanti, e però taglialo al 1000 almeno. Poi di bloccare questi extracomunitari, sono l'uomo più felice del mondo, perché ce ne sono anche troppi, poi la Francia, pezzo di merda, già gli ho scritto su Facebook, mi l'ha bloccato un mese ma non me l'ha funzionata, e infatti ha detto qualche commento a scrivere sulla redazione Facebook, ho detto sì, voi potete chiudermi il Facebook, la bocca non me la chiudete, siete una massa di bastardi, quindi non me l'ha funzionata già, per dirti, io ho altre cose da dire, basta, poi. È inutile che il PD va a rompere le palle di fatto il reddito sta prendendo su dei poveri, non è vero niente. Allora ti dico io cos'è, non voglio vedere che si comunitari, perché loro ci mangiavano, specialmente il PD cosa faceva? Andavano lì, si prendeva i soldi e le faceva venire in Italia per mangiarsi su della comunità europea, lo sappiamo questo qua, oi, adesso non mangiano più. Ce ne abbiamo troppi, ce ne dobbiamo prendere gli altre nazioni, quella bandiera tedesca, se ne invidia, tu francese, te ne invidia tu, quell'altro così, e se non basta, noi abbiamo anche troppi, anzi, io avrei tolto, innanzitutto avrei tolto anche rito a questi extracomunitari, perché è inutile che tu me lo dici, sono 10 anni qua, che ci ho messo fallino, non è vero niente, tu sei nero, e tu non pigli un tubo, sei solo per gli italiani, non basta, sono soldi buttati, infatti si vede quanti milioni buttati per questa gente qua. E vabbè, comunque. Solo un secondo che apro la porta e faccio uscire il cane, forse ne fa bisogno. E io avrò prima che ti devo stare in casa. C'è qualcosa sul 10? Aio, adesso di buco, scendi pure. Eccomi. Mi hai fatto uscire il Cannuzzi. Hai imparato, adesso c'è qualche topolino in giro, correndo in maniera saente, una bacia all'altra. Ma quella è furbina, se esce fuori la cancella e loro sono fregati. Ma loro adesso già lo stanno scendo. Loro sono sempre in cortile, girano qua, là, capito? Poi non li faccio dormire fuori già perché c'è troppo freddo, vedi, nega. Poi se piove dietro l'acqua, quel cassettatore non me l'ha mai fatto il sciuguglione. Se scende l'acqua non fa da un po' varacci. Anche gli uccelli non sto facendo più dormire fuori. D'estate sì, ma l'inverno c'è dentro in casa. Anche se sono animali io ci tengo troppo già, quindi, assolutamente. E quello dello spirito, c'è una signora che ha preso il pollo, a me è tolto un botanotto per i miei cuccioli. E la signora, il pollo e i cani. E te me ci sta meravigliando perché ce l'avrei comprato domani. A me lì la pensa in questa maniera, perché il cane lì non ne ha. E perché dico una cosa, è meglio un cane che un'altra persona, non ha capito? Col tono più grosso glielo ho detto. Se che ne ha dovuto se n'è andato, va a fa culo. Meglio un cane amico che un amico cane. E allora, grazie. E mi scena mezzo che la Yeti guaccia. Io se vedo uno che abbandona un cane non è che lo guarderei come ne vedo certi su Facebook, per carità, mi fermo e mi affederà il culo, mi Yeti. Ma infatti non fa manco a dire niente, perché lo sopra dire le persone, quindi il bisogno nudo, se sta di nudo, tanto crea sempre problemi. Quando dici qualcosa c'è sempre qualcuno che ti contraddice, che non la pensa come te e diciamo le polemiche. Ma io mi abbigliato non avrei nulla. Ah, io già sono tipo che rispondo, non me ne frega un cazzo, che è tondo, lo dico. Ti lo può vedere il cane anche cristiano, quindi dici mi auguro. Se tu lo pensi così, fate una fanculo come non ci parla neanche. Io la trovo impressa a me, oh, per carità. Non ti interessa il cane, non dire niente, boh, basta, non è il cane. Quindi, se uno che parla così, io ho il cane e non vedi nulla, io posso comprare neanche il caviale, cane mio, a te non te la fatti nulla. Ti sto chiedendo qualcosa per comprare la roba io, cane mio? No, io li servo bene, boh, basta. E pittina, poi l'accompagniamo i farò così qua a me. No, guarda, poi il cane, innanzitutto, se è giusto così, meglio un cane amico che un amico cane. Manca paragone. Ma infatti, allora loro non ti tradiscono. Aia. Gli amici quando ti sembrano proprio amici, pure ti girano le spalle e ti danno la pugnalata. No, ehi, come qualche altro amico che era tanto amico, ogni giorno qua e là, più vuoi basta fare i rombi, e voi manco di caga più. Buonasera, buonanotte, va a fare culo. Cazzo, che sono l'amico già. Anche amico tuo, Vabbè. Amici, diciamo, conoscenti più che amici. Vabbè. No, a me, ripeto, io Gianni, amici ne ho pochi, perché ne ho pochi veramente. Ma i pochi posso contare con le punte di dita, che so che io posso contarci o loro posso contare su di me. Anche tu sei uno dei primi lo stesso, ripeto. E neanche a paragone le altre persone. Le altre persone si dice ciao e basta, non ci ho mai frequentato, perché sono personaggi che valgono zero per me, capito? Quindi manco posso chiedere qualcosa, pure esci un po' di caffè da Gianni oggi. Però non glielo dico, perché assolutamente manco di cagare. E quindi sembra che ci sono persone attroccate e poi non mi tocchite che mi caghiti, ma pensavi a luci. Io mi conosco abbastanza bene già, non mi conosco un giorno, io sono fatto così, capito? A me che mi tratta bene, tratto bene. Gli altri zero, non mi interessa niente. Era prima. Cosa? C'è uscito a tratti. Ho detto così alla prima. Sì, ma sono diretto, vedi, non nascondo niente già, cosa devo dire, lo dico. Lo so. Vabbè, magari dovresti contare fino a 10 qualche volta, ma che magari per ragione non fai. Però è carattere quello. Sì, ma c'è anche questo. Anch'io sbaglio, non è che lo ammetto. E poi, ripeto, non ho detto che io dico ho sempre ragione, assolutamente. Potrei sbagliare anch'io. Dopo ci posso riflettere e chiedo scusa se ho sbagliato. Sono umile pure, capito? Non è che sono un tipo orgoglioso, no, assolutamente, non esiste. Quindi, è su certe persone, il mio diretto ci vuole già, perché ci vuole certe persone. Ottoni, aspetta un attimino che voglio fare una prova, voglio mettere il DM1000 in questo apparato qua, vedere come va, perché mi sta scocciando il fatto che non esco di radio a volte, mi sto rompendo le balle, aspetta. Dai, faccio, sono qua in ascolto. Attenzione Tonino, come va questo microfono? C'è una radio proprio di quelli microfoni, proprio di quelli scadenti, proprio pio. Comunque la radio è 5, è pulita. Aspetta, ora stavo regolando, guarda adesso. Ma l'ha fatto sul camera, infatti. Adesso sei tornato tu, forte. Questo qui è il DM1000, aspetta un attimino che l'ho visto. Quindi confermi che va bene questo qua. A voi già forte. Ecco, a voi, Torino. dice per la pernacchia, sono tante pernacchiette. C'è Antonio di Galunaga. Io mi ricordo già tantissimo tempo fa, ma io ti sto parlando di 30 anni fa forse, era una via Grazia con un cimì che non voglio fare nome, conosciutissimo, e mi presenta questo altro cimì che avevo conosciuto. Cazzo, io quando l'ho visto, ho toccato la mano, ho detto, cazzo, ma scusa sto dico, ma sei così feo? E io dico, cazzo, che figura mi aveva, ma cazzo, mica fai a me nome. Era peggio della Mucci, cazzo, porco mare proprio, mamma mia, tra c'è che Bassoni conosci tu. Ah, io non so, io ce la faccio il culo già mi conosci. Non guardo niente, no. Ma io lo conosco questo qua. No, penso di no. Ah, quindi non fa parte di quelle fotografie famose? No, no, negativo, niente. Ma questa persona che mi ha presentato, niente di strano, se anche l'ascolto, non sa mai. E quindi ho qualche parente suo, ma meglio niente, non fare nomi. Ho capito, là. Vabbè, comunque questo qua il DMVille gli ho messo la capsula che avevo, non è l'originale la capsula, quindi va bene. Sì, perfetto già. Ma questo di Memmire che stai dicendo così, è un microfono? Sì, è un microfono con l'eco. L'eco che ti ho fatto sentire è un eco di quelli praticamente che non finisce mai. Se tu lasci il pulsante abbassato, continua a leccare, capito? No, non ho mai visto questo microfono com'è. Non te l'ho mai visto a te. Perché ce l'avevo sul 2009, che è l'ultimo apparecchio che c'è giù, quindi non è che si veda, capito? Non me l'ho visto per quello. Adesso mi devo appuntare a mettere bene a posto quel microfono là, perché è bello, mi dispiace venderlo, non lo voglio vendere, dai. E quale? Il Super Sidekick. Quello lì devo aprire e controllare bene le lamelle, devono fare contatto bene, perfette devono essere, se no è inutile che lo usi, perché magari se non premi bene non esci di radio, capito? No, non lo dare che già, so come le mosche bianche, io ce l'ho, me lo tengo, lo darei in mano suo quello lì. Potrei dare l'Expander 500, ma no quello lì, assolutamente. Se no lo dai a coso, mi fai incontrare la pomponia. Kappa. Comunque avevo una capsula di quelle di vecchia era, dai, di un microfono da tavolo, e gli ho messo quella in questo microfono qua, non ci stava, gli ho dovuto fare lo spazio per farcela stare, perché ero leggermente più grandetta. Dunque penso che anche le capsule delle vecchie famose cornette telefoniche dovrebbero andare bene, quelle in ceramica. Sì, anche quelle di coso, di citofono, eccetera, eccetera. Sì, ma dipende che capsule telefoniche, del Sirio, quelle del Sirio andavano bene. Vabbè, ma infatti che le cornette telefoniche non c'è più, a meno che qualche cabina telefonica che c'è ancora esistente. Oh, le trovi, basta che vai con i negozi dell'usato. C'era una cesta piena di Sirio, ma l'avevo comprato io apposta per lei, l'avevo pagato 5 euro, ma per una capsula 5 euro non ne vale la pena di prendere. Beh, sicuro è vero. Ma io gli avevo da telefonare uno per il Galaxy e non si è fatto sentire. Ha detto fine settimana, adesso non so se era sabato o domenica, per 2,50. Anzi, me l'ho mai detto, io l'ho visto 300 euro, ho detto subito abbasso qualche cosa, no, a me no, non importa, dice le 50 euro più o meno, capito? Quindi anche 300 euro non è problema. Ma qua Sassari? No, questo è un infermiere di Urbia. Ah, ho capito. E lo devi portare tu? E sono indeciso, capito, di darlo, perché questo presidente ha tutto, però non c'è l'SMI. L'SMI ce l'ho nell'altro, quello che mi aveva venduto Alessio, c'è 50 euro, quello mette 10, quello ce l'ho tutto. Non è piccolo, è per macchina. E non è stazione fissa, non è come il Galaxy, capito? Stazione fissa che il presidente è sotto solo AM. Qui andare il Galaxy che ha tutto. Perché io volevo sistemare bene il CDR che metterlo qui al Galaxy, che pompa bene. Poco fa io non ce l'avevo col Galaxy. Il Super Sidekick se lo mettono al Galaxy fischia, capito? Fischia, boh, è un casino. Purtroppo. Niente, per esempio al presidente io devo usare quattro fili, perché io se tocco il microfono al presidente manca la ricezione, quindi devo dare la ricezione con il filo, cioè con la massa e l'altro del filo che va eliminato su Galaxy. Lo so, io sono sicuro se metto il CD Kiki qua al presidente c'è una bomba, esce. No. Ma adesso mi voglio ascoltare con questo microfono. Io metto le cuffie e mi sento, capito? Con il Galaxy però, con questo no. E io cosa sto facendo? Però se io, l'antenna ce l'ho a cosa, presidente? Io accendo il Galaxy, metto le cuffie e mi sento. E anche io faccio così. Invece, tutto spento, solo il Galaxy acceso, metto le cuffie e mi sento in cuffie, mi sento. Col CD Kiki. Che vuole trarre? Oggi è tutto morto, eh? Ma solitamente entrava Gavino a quest'ora, ma buh, no, non è entrato. Gavino mi ha chiamato, non so se era ieri, se avevo del cavo grosso, almeno 10 metri, ha detto no, io sinceramente cavo grosso ho soltanto la DG 58, anche quello grigio, poi, e ne ho un bel po', però proprio il cavo RG8, RG 213 non ce l'ho. Stavo cercando, non so cosa devo fare. Quello che hai tu è l'HP1000, l'HP100, l'H100 va bene. Quello grigio? Non è quello che sto usando io adesso. L'H100 va benissimo, è meglio dell'RG58. Quello che mi ha preso la matassa abbiamo diviso noi, ti ricordi? Eia. Eia, e me, quello è buono, è già. Quello è buono, sì, va bene. Mica. E Fusano ne aveva soltanto 20 metri di RG8, mi sembra, RG213, di RG8. E a 3 euro il metro, no, 3,8. Fusano è un bel, come si dice, boh. È un bel caro, cavagava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow. Sono contento che sia allegro, meno male, così non ti ricorderete della cambuzza. Ecco, a voi, Cavasacchi, Isacchi di Mogliani, Cavatappi. Ehi, ma ormai ci chiamano Cavatappi. Oh, io, Piero Drago, ti piombo i telefonate. Sì. Che tempi, ci manca Falcone. Sarebbe dico, piazza del baracchino, vabbè che adesso si usano i binocchi, va. Sembra così, ma ha fatto la storia. Sei di scappa di tanto. Perché c'erano le cuffie, l'apparato acceso. Sì, comunque. Io vorrei mettere, siccome ho dato via quei barazzoni vecchi antichi della Giovanni, cioè date a tutte a Gianni, a Giovanni, come cacchio si chiama. E niente, ho fatto un po' di libera roba e quei due stazioni fisse che mi sono rimasti e baracchi di quei mobili, qua nei mobili non ci stanno ancora. Che cacchio di mobili devo costruire qua? No, devo rimediare, vendere un troppo di roba, un casino se no. Vabbè, per Natale regalami il presidente. Oh, a una volta si è attaccato proprio, c'è l'unico che esce bene, è che vuole anche quello lì. Niente, già, io mi devo fare l'impianto, te lo cavo già ne ho, a mettere un baracchino in cucina, ma io ce l'ho ringo, mi sa che metto l'arringo fuori, posteggio l'arringo, sì, e mi piace il baracchino in cucina. Non posso mettere un T qua, andare uno là, uno qua, in casino, no. Spronato. Antoni, un attimino che mi ho chiamato apparecchio. Eia. Antoni. Eccomi. Ecco, questo che è lui c'è. Cosa? Questo è il Ruiz. Sto facendo un po' forte il radio lo stesso. Questo è bello, questo è un bel apparecchio. Lo cambierei solo se dovessi mettermi qualche stazione tipo, usa tipo 640, roba del genere, se no non lo tolgo. Addirittura, 640. Oi. Al posto di questo qua, guarda che questo qui vale 250 euro, questo apparecchio qua, anzi di più, perché io con la spesa di spedizione ho pagato di più. Ma gliel'hai di nuovo tolto, cioè non l'ha venduto? Cosa? Ma ce l'aveva a tizio quel baracchino lì a venderlo. Ma non ho trovato amatori che lo vogliono pagare come si deve, lo vogliono pagare di meno, eccetera, non lo do, io lo do so se me lo pagano come l'ho pagato io, non ci voglio guadagnare nulla, ma almeno 250 euro li voglio. Ma cos'è, 40 canali? SB, cosa c'ha? 80 canali, 120, quanto ne ha? Ah, 40 canali per banda, insomma le laterali e la M. Sì, 40 canali solo. A me guarda, questo lo sto accendendo perché ne ha 80, se no manco l'aveva acceso. Esce bene, e boh, se no io vado sempre su canali tipo Saturn Echo. Capito? Quello colino che aveva avuto all'inizio, c'è stesso canale di questo qua, tipo Classic in Pluto. E più e meno. I 40 canali, 23 canali, manco le sto accendendo, penso un po'. Lo so, però questo qui è un apparecchio che all'era sua era molto quotato, capito? Ma le cose sono cambiate già. Quindi, oggi tu guarda una persona, cazzo che si hanno messo anche 4-5 mila euro una Fiat 500, quelle vecchie, ma cazzo la miglia, io mi comprerei più una Panda, sì la pagherò, quelle 12-15 mila euro non me ne ha fatti nulla, ma una Panda con le palle quadrate, perché ha fatto una signora Panda, sia come interni che esterno, è molto meglio delle prime che hanno fatto, c'è cioè, una roba vecchia, che le miglia più, oi, niente, adesso si va sempre su, in alto, più canali si ha e meglio è, perché vuoi sempre scoprire cose che non abbiamo mai sentito, tanto hai notato che dall'uno siamo parati e non viene nessuno, adesso siamo noi due, siamo quasi un'oretta ma non viene mai nessuno, siamo solo noi due e basta, io mi ricordo torni dietro nel tempo veniva niente, oi, e nell'arco di 40 canali trovai sempre gente, anzi no, che, allora per sentire cose diverse o ti prendi un bel kinfo o ti prendi, capito? E io ho visto quello che c'ha coso, Claudio Chiodoro Genito, bello veramente, è superiore, un bel al 140, al 440, e lui manca a paragone, mi ha fatto sentire molte cose, mi ha fatto sentire, bello veramente, mi è piaciuto. Ma vabbè, tu dici i tempi sono cambiati, ma l'ho pagato così, non posso darlo, tu la daresti una cosa meno di quello che l'hai pagata, cioè ci perdi, no. Assolutamente, per perdersi io lascio qua, non, grazie a Dio non ho bisogno di nulla. No, diciamo, se uno è amatore è diverso, capito, gli piace quel prodotto, va bene. Allora io dico sinceramente, il mio baracchino, il Galaxy, è stato un eco, questo ho pagato 200 euro da uno dei Cagliari, ma io minimo 250, se no 300, di vero non le do, manco per le palle. E noi è stato un eco che ha 271 canali, Gianni, non è mica un baracchino con 23 canali o 40 canali, manco per le palle, ho 120 canali, no, o 80. Bensì 271 e quindi a me piace moltissimo, a tutto, e poi stazione base è quello che conta, se noi me i baracchini adesso quelli, faccio un fascio, quelli 23-40 canali che ho tutto a blocco, una cifra X le do tutti quanti, mi tengo soltanto queste due per la macchina, quello che è tipo Galaxy Pluto e questo Saturn Echo, e boh, il resto le do via tutti, non me ne ha fatto più nulla, faccio pulizia perché io no, più roba tolgo e più pare che venne di più roba in occhi. Non sto comprando più niente, c'ho ancora da installare due videosorveglianze, 8 telecamere, non faccio mai tempo di fare nulla, vabbè che stavo male prima, ma cavolo, e poi da qua me ne voglio andare via già, capito? Io non mi sento qua di stare a piazzare questa roba qua, trovando con la veranda che fa di schifo, no, non è giusto mai, chi c'è molto di fame per carità, vuol sapere una fitta in più avanti, ma te niente, è quello che mi ha abbigliato, no. Quindi ecco perché non ho installato molte cose. Se tu pensi alle plafoniere meglio che abbiamo comprato io, quelle che ha tre luci, che sono deboli per la notte, potenti più, medi più, forti, tutte a LED, bellissime, le ho tolte, non le ho più piazzate qua quando sono ritornato qua. Non le ho messe perché non ho intenzione di rimanermi qua, ne ho le balle piene, non vedo l'ora da mini. Quando tu hai un posto anche per i cani, poveracci, perché anche loro ti puntano appresso, con cortile, te ne vai. Sì, in effetti è quello che la prima cosa che penso è il cortile, voglio una casa con cortile, per i canucci, capito? Io penso più a loro, già questo me l'ho già andato a me. Non è facile, se ne trovo anche, diciamo, anche nei dintorni, budi, eccetera, mancare, io me ne ando. Sì, avendo tanto vicino a Sassari, lontano non ci voglio andare. Mi hanno offerto case fuori dei paesi a me, Florinas, troppo lontano, sì, voi, Usi, Tissi, Uri, no, già. Quale paese non mi piace proprio, ma se mi ci guarda intorno in campagna va bene. E poi se ti fai i conti ci metti di meno ad arrivare a Sassari da Ossi, da Tissi, da Uli, piuttosto che arrivare da casa tua invece arrivi a Sassari, perché poi quando trovi il traffico, quando vai a lavorare specialmente, una cosa se l'ha presa, mi pare, a Uli da casa, uno che l'ha pagato un bel di meno, si è preso una villetta a schiera di quella bella, dice a Sassari non l'avrei trovata a questo prezzo. Sì, ma vedi, anche dove metto io è una via autotrafficata questa strada qua. Io quando andavo a lavorare l'anno scorso già, se io uscivo sempre alle 7:15, 20:00.